Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Tu che cos'hai su Coco? Io ho il piano elettronico, la tastiera. Bellissimo. Io ho invece le, come si dice, le fotografie tridimensionali. Vabbè, comunque, non perdiamo tempo adesso. Benvenuti a Möbius, ascoltiamo i titoli e poi incominciamo con Coco e tutti i suoi amici. Meno di 1000 all'estinzione. Sono i gorilla di montagna e il WWF punta alla salvaguardia di questa importante specie. Alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa stanno lavorando in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea per la costruzione di moduli abitativi da costruire sulla Luna. Si pensa all'uso di stampanti 3D. Migliorare gli ambienti con tecnologie che rendano più facile la vita, soprattutto quando ci sono problemi di salute. Quello che ancora non sappiamo sull'evoluzione delle specie. L'epigenetica può aiutarci a capirlo. Ecco, questo è Coco, quello che ho trovato io, il video in cui suona la tastiera. Sentiamo. Insomma, specie... Vabbè, come un bambino che inizia a suonare. Pare che lei, Coco, una femmina di gorilla, pare che lei la suoni tantissimo, le piace un sacco. No, infatti sta imparando, vedi che migliora. Sì, migliora. Allora, hai presente la macchinetta vecchissima, quella in cui si guardano le foto tridimensionali? Sì, una specie di visore con dentro le... Master, no? Sì, tu sì, devi sì. schiacciare e mano a mano ti partono sì. le nuove foto. Allora, senti cosa fa lei. Via. Adesso si ferma perché questa le piace. E questa le piace. E di solito c'erano le foto dei monumenti, giusto? Vedi che adesso... Adesso si ferma... Palesemente ci sono delle foto che vi ha. Ce n'è una sulla quale si ferma però, 10 secondi. Potremmo, Federico, fare a meno dei gorilla. Questo è il punto. Non se ne può fare a meno, ragazzi. A questo proposito ci è arrivata una domanda di un'ascoltatrice, Angela. Sentiamola e poi arriviamo al punto. Qual è il numero minimo di individui sotto al quale una specie rischia l'estinzione? Grazie. E noi adesso parliamo di gorilla in particolare, e però devo ricordare che Coco, quello che abbiamo sentito prima, è una femmina che ha circa 35 anni con la quale hanno fatto un sacco di esperimenti e li stanno facendo fantastici. E quindi è proprio lei che ci trasmette questo fatto che noi non possiamo fare a meno di loro. Poi qua ci colleghiamo anche con la domanda di Angela, perché insomma è importante, perché il WWF è partito con una campagna meno di 1000 all'estinzione, perché sono rimaste 880 gorilla di montagna nei Monti Virunga, adesso ne parleremo, e diciamo che sono veramente un numero ridottissimo, per cui appunto sono destinati all'estinzione. Allora diamo la risposta ad Angela e parliamo di questa iniziativa insieme ad Isabella Pratesi. Intanto buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Lei è responsabile per il WWF dei progetti internazionali di conservazione, in particolare in quella parte di Africa, appunto in Monti Virunga, Congo, Ruanda, in cui i gorilla sono arrivati a 880, sono pochissimi, ma va detto che negli ultimi anni sono addirittura aumentati. Noi eravamo arrivati negli anni 80 a un minimo storico, erano rimasti soltanto pochi più di 200 gorilla di montagna, senza che nessuno lo sapesse, erano stati sterminati dai bracconieri dalla distruzione delle foreste. Adesso stanno leggermente aumentando, ma come al solito non esistono mai storie veramente finite, e c'è una nuova minaccia che rischia di togliere per sempre questa meravigliosa specie dal nostro pianeta. E qual è? È la minaccia dell'estrazione di petrolio, perché purtroppo il parco che accoglie gran parte di queste gorilla, che è il parco del Virunga, purtroppo sembra giacere sopra un grosso deposito di petrolio, per cui le grandi multinazionali del petrolio si sono già lanciate ad acquistare più o meno legalmente delle azioni per poter entrare nel parco e sfruttare il petrolio. Le minacce precedenti prima erano la deforestazione, anche la guerra, i bracconieri, così, e adesso ci si aggiunge anche questo. Avere le aziende del petrolio dentro un parco che è un parco di meravigliose foreste, in alcuni casi non violate dall'uomo, vorrebbe dire che questi gorilla non avranno più un luogo dove riprodurre. È una follia anche complessiva. Intanto però sulla domanda ci dica, in generale c'è una risposta? Forse no. C'è un numero minimo per cui una specie è destinata all'estinzione? No, veramente non esiste un numero minimo, il numero della specie è strettamente legato a quanto habitat a disposizione. Se l'habitat di quella specie, in questo caso del gorilla di montagna, è stato ridotto a un niente, anche la popolazione si riduce a un niente. Quello che possiamo fare è cercare di mantenere quest'ultimo nucleo di gorilla con le sue foreste, sperando che poi un giorno questa follia umana di distruzione degli habitat e della natura faccia un po' di passi indietro, allora avremo un nucleo di gorilla da, in qualche modo, con cui da riportare nei loro luoghi naturali. Sono animali che non possiamo perdere, Isabella Prati. Cos'è che si può fare per questa vostra campagna? Sì, visitare il nostro sito dove ci sono tutte le indicazioni per sostenerci, per aiutare i gorilla. Lì in particolare, sulla conservazione, che cosa fate? Noi nel bacino del Congo e anche per i gorilla facciamo di tutto, dal sequestro di bushmeat, cioè? Che è la carne di gorilla. È la carne di gorilla che viene presa. Se la mangiano? Ah, bushmeat, carne di bosco, di foresta. Carne di bosco, perché molte di queste comunità ancora mangiano gli animali selvatici, ma non solo, perché in alcuni casi fa parte proprio delle tradizioni, diciamo, è quasi fa parte degli equilibri locali, ma questa carne viene anche portata in mercati internazionali dove è molto richiesta, non soltanto quella di gorilla ma anche quella di scimpanzé. Quindi noi lavoriamo contro questo, lavoriamo contro i bracconieri, lavoriamo proteggendo le aree protette in modo che siano effettivamente gestite perché la biodiversità sia protetta, lavoriamo con i governi per incitarli ad essere più attenti nella protezione delle loro risorse naturali, perché in molti casi appunto queste risorse vengono sfruttate, rubate anche da interessi internazionali. Facciamo di tutto, lavoriamo con le comunità del posto, lavoriamo con i bambini per insegnargli il valore della loro natura e insegniamo ai locali a non cacciare la risorsa selvatica, ma piuttosto di coltivare delle proteine, perché in molti casi il bushmeat è proprio l'unica fonte di proteine. Certo, infatti bisogna proporre delle alternative. Esatto, quindi insegnargli a coltivare legumi piuttosto che allevare animali domestici ed altre, insomma. I gorilla vanno visti e vanno visitati, perché qualunque persona vede uno di questi animali nella foresta, lo guarda negli occhi, è vero, e ne capisce il valore, capisce la forza, l'energia che danno questi animali. E anche quanto DNA abbiamo in comune. Sì, va bene. 8% addirittura con i gorilla. Grazie Isabella Pratesi, davvero in bocca al lupo per il vostro lavoro. Grazie tantissimo a tutti voi che ci sostenete sempre. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sì, io ho sempre saputo, perché se ne parlò dalla prima volta che andarono sulla Luna, che sulla Luna c'è una polverazza tremenda. Che ti si appiccica ai pantaloni. No, esatto, cioè che ha tutta una sua collosità. E se questa collosità si potesse sfruttare per magari tirare su un muretto? Ma certo, i muretti, certo. Quelli pugliesi, quelli liguri anche. No, dai, secco. Allora, serissimi, perché questo, a parte ci stanno pensando, ci sta pensando l'Agenzia Spaziale Europea, quindi diciamo che è una cosa... È per questo che ne parliamo. E anche la NASA, però adesso parliamo del progetto nostro, insomma europeo, per cui è stato coinvolto anche un ente di ricerca italiano, che è la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, da sempre ai primi posti per quanto riguarda la robotica, e in questo caso infatti hanno messo a punto un sistema che riproduce, diciamo, un po' le stampanti 3D, adesso ci facciamo spiegare, che potrebbe appunto costruire dei moduli per fare delle casette sulla Luna. Allora proviamo a sentire di che cosa si tratta con Valentina Colla. Intanto buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Lei lavora al laboratorio di robotica percettiva della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è coordinatrice di questo progetto, in cui ci sono diversi enti di ricerca europei, tra cui appunto l'Agenzia Spaziale, e ci state provando, insomma, a tirar sui muretti. Sì, ci stiamo provando. Abbiamo partecipato ad un progetto finanziato dall'ESA, che ha una grossa componente italiana, dove è stata testata una tecnologia italiana, brevettata da Monolite UK, che realizza manufatti tramite stampa 3D con materiale sabbioso. Il nostro contributo come Scuola Superiore Sant'Anna è stato quello di contribuire all'adattamento di questa tecnologia alle condizioni che si potrebbero trovare sulla Luna. Come diceva Federico, davvero c'è quella specie di polvere un po' appiccicosa, e diciamo che lì dovreste, insomma, trovare il materiale in loco per tirare su questi muretti, che hanno veramente questa caratteristica strana, questi materiali. certamente, e sulla Luna non c'è altro nella zona dove si potrebbe instaurare una colonizzazione umana, non c'è altro materiale adatto se non la sabbia, e con un opportuno aggregante questa sabbia potrebbe essere trasformata in costruzioni adatte a proteggere un insediamento umano. Mm-hmm. Per chi non avesse mai visto una stampante 3D, se ci fai un po' capire qual è il meccanismo di deposito. La stampante utilizza quello che noi chiamiamo inchiostro, cioè un liquido che fa da aggregante e costruisce dei grandi blocchi che sono parti di queste costruzioni attraverso la sovrapposizione, diciamo, di fettine successive. Sì. Di sovrapposizione di livelli. Questi blocchi sono abbastanza grandi, noi siamo passati da piccoli blocchi intorno ai 14 kg ad un blocco di costruzione più grande che pesava ben più di una tonnellata. Ah. E non sono pieni, hanno una forma particolare che li rende adatti ad avere le adeguate proprietà isolanti e allo stesso tempo ad essere efficientemente, diciamo, montati uno sopra l'altro per costruire una struttura, diciamo, più complessa. Certo, sarà bene chiarire, perché magari il nome stampante rimanda a quella che abbiamo ben presente noi, con il carrello che va avanti e indietro e c'è la luce. Queste qui spesso volentieri sono come dei bracci robotici. Io per esempio ho visto una stampante costruire, sono un po' lente per il momento, ma un'intera sedia, come diceva lei prima, mettendo strato di 2 mm per volta, e però in questo modo si costruisce una struttura tridimensionale. Voi pensate che, naturalmente, non potendo portare lì piccole impresine edili sulla Luna, con la benna che gira, insomma, per fare il cemento, la malta. Una bella stampante messa lì, insomma, prende il materiale sul luogo e costruisce lei un involucro dove poi possono vivere degli astronauti. Certo, naturalmente la tecnologia doveva essere adeguata, perché quello che noi pensiamo è che la stampante debba essere il più possibile autonoma, eventualmente possa essere coadiuvata da altri veicoli autonomi o semiautonomi, quindi occorreva modificare il processo già brevettato sulla Terra da Manulife UK per adattarsi a questo particolare tipo di operatività. Ma certo, quello che voi avete già simulato, che diceva circa una tonnellata, è un bel muro, insomma. Certo, perché alcune stampanti sono grandi, Sì, sì, la stampante è quella, il macchinario che attualmente è operativo in Pisa, è un macchinario molto grande, anch'esso andrà adattato, perché bisogna portarlo su, versioni più piccole, esattamente, probabilmente saranno versioni più piccole e mobili, coadiuvate da altri veicoli mobili che magari accumulano il materiale in maniera che la stampa sia più veloce ed efficiente. E senta, vi siete già immaginati, c'è già un progetto di come potrebbero essere poi dentro, non dico l'arredamento, però insomma, per capirci. Che strutture, che forma avranno, che come sono? Hanno una forma tipo iglù, diciamo, delle cupole collegate, sì, una struttura modulare collegata da piccoli corridoi. Questo è funzionale anche al fatto che ne saranno create un po' per volta, quindi è abbastanza naturale pensare che queste piccole unità abitative poi si colleghino e formino qualcosa di più grande. All'interno ci saranno degli spazi sicuramente ristretti, ma non così angusti come quelli che a volte vediamo per i moduli spaziali, perché questi insediamenti sono adatti a una lunga permanenza ed anche allo svolgimento di esperimenti scientifici, quindi chiaramente non saranno confortevoli come un albergo a 5 stelle, ma non saranno nemmeno, consentiranno comunque una... di viverci per mesi e forse anche per qualche anno. Senta, ma la stampante costruisce l'involucro esterno, poi dentro bisogna attrezzare, che appunto, come diceva Chiara prima, non è solo un problema di mettere dei tavoli, bisogna anche che questi involucri siano immagino con delle pareti in grado poi di poter assolutamente contenere l'aria che ci dovrà essere, in modo che, cioè, tutta quell'attrezzatura fine lì invece dovrà essere fatta da degli astronauti che ci lavorano dentro? Certo, noi abbiamo immaginato, gli architetti di Foster & Partners, che è uno studio londinese molto conosciuto, hanno insieme a noi immaginato che ci potesse essere una struttura gonfiabile che fa da involucro protettivo della parte abitata, e che le mura di sabbia o i blocchi siano costruiti da protezione intorno ad esso. Quindi all'interno, okay, certo, la struttura sarà, diciamo, più confortevole ed avrà anche le caratteristiche adatte ad abitarvi. Però con la gonfiabilità siamo a posto, perché si adatta perfettamente, no? Una struttura di poco ingombro, nel senso, quando va trasportata inizialmente avrà degli ingombri più ridotti. Sgonfia, certo. E domanda da $1 milione, si può ipotizzare una tempistica? La tempistica dipenderà molto dalla disponibilità di ulteriori finanziamenti per proseguire questo lavoro, di cui noi abbiamo posto una prima fase dimostrativa piuttosto importante, di successo. Sicuramente occorreranno altri anni per fare i primi test dimostrativi sulla Luna. Io non penso prima della fine del decennio sia possibile pensare alle prime dimostrazioni on site sostanzialmente. Al momento comunque sono stati fatti dei test che dimostrano che la tecnologia è applicabile, funzionerebbe, certo. Test a vuoto. Per il momento i programmi spaziali di viaggi sulla Luna sono un po' molto sospesi. Beh, però lei lo sa come andrà a finire, che la prima roba che realizzate sarà un villaggio vacanze fatto da qualche privato, lo sa che invece i privati si stanno scatenando per andare nei finanziamenti e loro i soldi ce li hanno. Ma guardi, questa tecnologia ha delle prospettive di applicazione anche sulla Terra molto interessanti, non solo per la costruzione, ma anche per esempio per il ripopolamento marino. Sono strutture, per la loro caratteristiche, per esempio, tanto per fare un esempio, che si prestano moltissimo ad opere che poi vanno immerse e che favoriscono la ripopolazione di fondali magari danneggiati dagli eventi naturali o dei eventi umani. Ma lì però con le stampanti che hanno bisogno, chiamiamola di malta locale, vuol dire che andate giù molto, perché quel terreno così sabbioso c'è a profondità notevoli nel mare. Ci sono due prospettive. Una è quella di raccogliere il materiale e stampare sulla terra, farlo in remoto, e poi mandarlo giù, metterlo, oppure si potrebbero anche studiare la possibilità di farlo in loco marino. Però per il momento le prospettive che vediamo sono del primo tipo, e poi appunto altre applicazioni di tipo terrestre. Sono stampanti che costruiscono, stiamo esaminando edifici. Va bene, grazie Colla, insomma ci tenga informati, davvero interessante, affascinante questo mondo, dal subacqueo alla Luna. La prossima telefonata dalla Luna, grazie e buon lavoro. Vi ringrazio, buonasera. Buonasera. Federico, lasciami ricordare un'iniziativa a proposito di innovazione e tecnologie futuribili. Se ci fossero inventori e innovatori all'ascolto che hanno un'idea nel cassetto, ecco, contattateci, scriveteci una mail a mebius@radio24.it, vabbè lo sapete, la mail con la quale potete venire in contatto con noi. Insomma, avete messo a punto un nuovo modo di lavare i panni, oppure di tenere ordinata la casa, di cucinare, di conservare il cibo, oppure avete pensato a un nuovo modo per smaltire i rifiuti, a come rendere più efficiente ad esempio l'erogazione di un servizio? Bene, mandateci le vostre proposte, brevetti o sogni che siano, perché le stiamo raccogliendo per sottoporle a un'azienda leader mondiale nel settore delle apparecchiature per uso domestico e professionale. E quindi, insomma, proviamo a mettere in moto questo meccanismo di innovazione aperta, di innovazione che viene anche dal basso. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Di che cosa vi parlo adesso? Vi parlo di tecnologie per gli ambienti di vita. E gli ambienti di vita sono la nostra casa, oppure l'ufficio, i luoghi di lavoro dove si passa un sacco di tempo, ma anche per esempio dei luoghi dove andiamo per espletare delle funzioni, quando stiamo in un ufficio postale in coda magari per 2 ore, potremmo anche considerare, per il tipo di cose che vi stiamo raccontando, anche degli ambienti esterni, per esempio una struttura sportiva dove si permane per lungo tempo, per esempio per un'intera giornata, per fare attività. Bene, perché vi parlo di tecnologie per gli ambienti di vita? Beh, intanto perché è di per sé un tema di ricerca molto interessante, ma anche perché questo tema è al centro di un progetto cluster, però di questo vi parliamo in fondo. Prima vorrei riuscire a farvi capire che cosa significa fare ricerca, inventare cose in questo ambito, che è appunto quello delle tecnologie per gli ambienti di vita. Per fare ciò ho 2 ospiti. Il primo è Marco Bocciolone. Buonasera, Bocciolone. Buonasera, dottor Pedrocchi. Lei è prorettore della sede di Lecco del Politecnico di Milano, ma è anche ordinario, professore ordinario al Dipartimento di Meccanica dello stesso Politecnico. E poi ho anche ospite Alessandra Pedrocchi. Buonasera, Alessandra. Buonasera. Ecco, allora, in un paese pieno di nepotismi, diciamo subito che io e lei non abbiamo nessuna parentela, nessuna frequentazione comune, anzi, essendo una radio, io non so nemmeno che faccia abbia lei, nemmeno la mia lei conosce. Anche fermo. Esatto, abbiamo un cognome un po' raro e quindi era meglio dirlo. Lei è ricercatrice presso il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Sì. Okay? Allora, credo che parlare di tecnologie per gli ambienti di vita in generale sia abbastanza impossibile, perché sono veramente tante le possibilità di lavoro e il progetto andrà su tante di queste. Chiedo prima a Bocciolone e poi a Alessandra Pedrocchi di farci 2 esempi. Bocciolone, incominci lei. Forse i più non lo sanno, ma medicina e ingegneria sono molto più legate di quanto si possa pensare. Il mondo della diagnostica, della terapia e della cura vede ovviamente come primi attori medici, ma le nuove tecnologie sono entrate prepotentemente in questo campo, e quindi abbiamo ormai team composti in forma paritetica da medici e da ingegneri. Certo, ovviamente certo. Ci sono degli ingegneri che naturalmente sono vicini a questo mondo come bioingegneri, però questo mondo si allarga a 360 gradi su tutti gli ambiti dell'ingegneria, quindi dalla meccanica alla gestionale. Quindi è un mondo che è molto interessante da questo punto. Abbiamo parlato spesso in onda, per esempio, di chirurgia robotica, insomma, per fare un esempio di punta, ma come oggi qualche esempio che citeremo oggi, ci sono infiniti campi come quello ad esempio della riabilitazione, dove la sinergia tra la parte clinica e la parte ingegneristica è assolutamente fondamentale per l'efficacia delle terapie che poi vengono implementate sui pazienti. Ci faccia capire, per esempio, con un esempio. Ad esempio, tutti noi conosciamo cos'è un cicloergometro, perché una cyclette, perché lo usiamo in palestra. Questo è uno strumento che nel campo della riabilitazione di certe malattie viene spesso utilizzato, ma è pur vero che nelle versioni tradizionali questo strumento non è in grado di fornire ai medici riabilitatori quelle che sono tutte le informazioni che sono necessarie. Allora, cosa gli manca? Ma ad esempio informazioni su quello che potrebbe essere una non simmetria nell'applicazione delle forze sulla gamba destra e sulla gamba sinistra, tanto per citare, oppure se durante una rivoluzione, quindi un giro completo della pedalata, il paziente in qualche maniera ha dei deficit. N informazioni che possono essere di grandissimo ausilio per chi deve implementare una terapia riabilitativa, ma che uno strumento tradizionale non è in grado. Non dà, perché certo, per esempio, il paziente può avere una gamba che sta esercitando meno forza dell'altra, e quindi dobbiamo saperlo. Esattamente, quindi ad esempio l'ingegneria entra con le sue competenze di meccanica, in questo caso della meccanica delle misure, per in qualche maniera estrarre questa informazione e rendere disponibile con dei dati facilmente accessibili e utilizzabili ai clinici. Ecco, ma l'ambiente di vita qui come interviene? L'ambiente di vita, ovviamente questo è un oggetto che nasce in un ambiente di vita che è un ospedale per la riabilitazione, ma perché no, può essere utilizzato in un ambiente come un ambiente casalingo, dove l'attività del paziente può essere in quel caso monitorato via con sistemi domotici. E però con tutte queste capacità di rilevazione anche da casa si ha, come dire, una interpretazione del paziente ad altissimo livello. Allora, assolutamente sì, adesso quello che sono le nuove frontiere della riabilitazione, queste nuove frontiere prevedono che meno si tenga il paziente in un ambiente che in ogni caso non è terribilmente piacevole come quello dell'ospedale, ma che è un ambiente più domestico, sia di ausilio, sia esso stesso di ausilio. È terapeutico, certo. Certamente. Col fatto che poi ovviamente si incrementa anche il numero di pazienti che contemporaneamente possono essere... Si possono seguire. Assolutamente, dallo stesso medico, lo stesso medico riabilitatore. Qui dobbiamo ricordare che i dati che emergono a casa sullo strumento sono monitorati in remoto da un ospedale. Certo. Possono essere assolutamente monitorati in remoto da un ospedale. Bene, questo è un primo esempio molto chiaro. Alessandra, allora ci dica lei invece un'altra possibilità. Sì, l'esempio di cui vi parlo è stato sviluppato all'interno di un progetto europeo, si chiama Mundus. E si occupa di un ambiente di vita in una situazione particolarmente sfidante, cioè la casa di un soggetto neurologico con gravi disabilità dell'arto superiore. Ah, ok, che proprio non riesce a muovere gli arti superiori. Il sistema aiuta a compiere alcuni gesti di vita quotidiana, come potrebbero essere prendere un bicchiere e portarlo alla bocca per bere, oppure schiacciare un pulsante, oppure andare a toccare la mano di una persona cara. Esso è una neuroprotesi, ma la filosofia fondamentale che ha guidato il progetto si basa su due concetti, la flessibilità e la naturalezza. Flessibilità, che cosa significa? La flessibilità è perché il sistema è modulare, cioè è fatto di moduli che quindi vanno ad adeguarsi alla singola persona. Per esempio, per riconoscere l'intenzione del soggetto possiamo usare l'attività residua dei muscoli stessi del braccio. Il soggetto ha ancora questa attività residua e quindi in modo molto naturale il sistema amplifica l'attività che il soggetto stesso sta comandando. Ma questo, mi scusi Alessandra Pedrocchi, nella misura in cui, insomma, questo è utile perché purtroppo fa parte, c'è un'evoluzione della malattia che può rendere sempre meno efficiente l'uso del braccio. Sì, di fatto posso avere una situazione in cui la debolezza è progressiva. Permette ancora una qualche attivazione muscolare, ma questa non è sufficiente a svolgere completamente l'azione che si intende svolgere. E quindi l'apparecchiatura di sostegno lo segue, invece che essere una cosa fissa, segue l'evoluzione. In questo senso è adattabile. Sì. Ah beh, certo, una bella differenza. Soprattutto quando pensiamo alle patologie progressive, come potrebbero essere la SLA o la sclerosi multipla o le atassie, questo seguire il paziente mantenendo il modo più naturale che lui possa avere per interagire con l'ambiente è stato proprio la nostra linea guida. Infatti, al peggiorare della situazione del paziente, quando quindi non c'è più attività muscolare, il sistema può essere controllato dai movimenti degli occhi del paziente. Quindi il paziente guarda la posizione da raggiungere e poi è Mundus stesso che muove il suo braccio facendogli raggiungere la posizione desiderata. Senta Alessandra, ci saranno parecchi che fanno ricerca su questa cosa nel vostro progetto. Avete un sito di riferimento, dato il tema, insomma, per avere più informazioni? Sì, è raggiungibile tramite l'indirizzo mundus-project.eu. Magari lo mettiamo anche sul nostro sito della nostra trasmissione, che si ritrova digitando Mebius Scienza in qualunque motore di ricerca, e lì diamo delle indicazioni più precise. Va bene, grazie Alessandra Pedrocchi, grazie Marco Bocciolone. Adesso andiamo a vedere che cos'è in generale un progetto cluster, che è quello che contiene un po' tutto quello che state per fare. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. E adesso ho invece al telefono Cristina De Capitani. Buonasera De Capitani. Buonasera. di Univerlecco, lei ha fatto un po', come dire, quello che nel mondo dello spettacolo si chiama il promoter, mette insieme l'idea e anche tutti coloro che devono fare ricerca in questo campo, che è appunto quello delle tecnologie per gli ambienti di vita. Prima ho citato Cluster, il nome di questi progetti è questo, no? Sì, Cluster è lo strumento che è stato proposto dal MIUR di fatto nel 2012 per fare grandi operazioni strategiche su 9 ambiti, fra cui tecnologie degli ambienti di vita, che ha la caratteristica di mettere insieme alti numeri di imprese, università, enti di ricerca che vogliano lavorare su ricerca, formazione e innovazione. Un altro obiettivo del cluster, che è molto ampio perché va dalla domotica ai materiali per la casa, ai sistemi per la deospitalizzazione, è quello di avere sì lo sviluppo industriale ma anche un forte impatto in termini di sostenibilità del sistema sanitario nazionale e regionale. Quindi l'idea è di avere progetti grossi, anche trasversali, interregionali, insomma cose consistenti. Assolutamente sì, quindi abbiamo i cluster regionali, quelli nazionali, ma l'idea è appunto avere grosse progettualità che traggano vantaggio dall'avere alti numeri di imprese e enti ricerca che lavorino insieme, che quindi crescano insieme e diventino competitivi proprio per quello, a livello nazionale e a livello europeo soprattutto. Perché c'è, come dire, anche un impegno di produrre conoscenza per l'Unione Europea, no? Esatto, l'idea è che si creino di fatto questi grossi gruppi che possano competere o collaborare a livello internazionale su queste tematiche. Tanto è vero che uno dei compiti che ci ha chiesto Regione Lombardia quando ci ha dato il mandato di coordinamento è proprio suggerire quelle che sono le indicazioni per i piani strategici sia della regione nel proprio ambito che a livello di sviluppo dell'interazione con l'Europa. Bene Cristina De Capitani, allora abbiamo capito di che si tratta, teneteci informati sugli sviluppi del progetto quando riuscirà a partire. Grazie mille, grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Parliamo di epigenetica e lo facciamo con David Balcom, inglese, docente, ricercatore all'Università di Cambridge, vincitore del prestigiosissimo premio Balzan 2012. Balcom era a Milano la scorsa settimana per la giornata dedicata al rivoluzionismo. L'epigenetica è quella teoria che si aggiunge alla genetica per spiegare alcuni aspetti importanti dell'evoluzione delle specie che la genetica classica, appunto, non riusciva a interpretare. In breve e badando molto alla sostanza, ve la metto così, quando si iniziò a ragionare sull'evoluzione delle specie si pensò che la trasmissione delle informazioni fosse diretta. Se uno fa il ciclista professionista, ve la metto sempre in modo un po' brutale, quindi ha due belle cosce robuste, allora il figlio avrà pure lui delle belle coscione. Si capì che le cose non andavano in questo modo, si capì che le informazioni contenute nei geni sono quelle che si trasmettono, sono queste, e quindi uno può fare un sacco di cose con il suo corpo durante la sua vita, ma questi cambiamenti non si inseriscono nei geni. Solo processi molto più lenti che selezionano certi soggetti rispetto ad altri introducono i cambiamenti nelle specie. Il collo lungo delle giraffe non nasce dal fatto che sforzandosi di andare a masticare le foglie sui rami alti il collo si allunga. Sono le giraffe con il collo già lungo scritto nei geni che sono favorite dal punto di vista evoluzionistico rispetto ad altre che ce l'hanno più corto. Però poi negli ultimi decenni si è capito che qualche importante influenza può anche arrivare dall'ambiente, quello del momento specifico in cui una specie sta vivendo. C'è una struttura di fondo, attenzione, che non può cambiare. Di solito si fa questo esempio, è come un testo teatrale, Romeo e Giulietta, la storia è quella, non può cambiare, ma noi sappiamo che nei secoli e nei decenni ci sono stati e ci sono diversi adattamenti, i registi introducono delle loro interpretazioni. Certo, non può accadere che Romeo e Giulietta vivano felici e contenti gestendo una trattoria a Verona. La prima domanda allora che ho fatto a David Balcom è la seguente: abbiamo giuste e motivate preoccupazioni per quanto di artificiale noi umani introduciamo nell'ambiente? Può essere che qualcosa di quanto sta accadendo possa avere un'influenza epigenetica, appunto, sulla trasmissione genetica? So the concern is that the environment will influence heritable characteristics of plants and animals. Capisco che la preoccupazione ha a che vedere con la possibilità che l'ambiente influenzi i prossimi cambiamenti nel mondo delle piante, degli animali e anche nel mondo degli uomini. Questa preoccupazione, questo pensiero può portare a due posizioni: preoccuparsi, essere preoccupati, essere, avere un'ansia rispetto a questi possibili cambiamenti, oppure essere ottimisti. Io dico che bisogna essere ottimisti, perché è vero che l'ambiente ha influenzato il mondo delle piante, il mondo animali e il regno degli uomini, ma quello che è importante vedere è che nel passato questa influenza dell'ambiente spesso è stata veramente dannosa, è stata negativa, ma ora non è più così. Ora abbiamo un ambiente che ha un'influenza. Arrivati ad oggi, con tutti gli strumenti teorici e sperimentali della genetica e dell'epigenetica, abbiamo uno strumento che si può considerare molto vasto ed efficiente per interpretare il rivoluzionismo. Anche in altre scienze ci sono stati momenti simili. In fisica, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del secolo scorso, si è messo in campo un insieme di teorie molto esaurienti, ma poi negli anni si scoprono nuovi orizzonti con grandi interrogativi che emergono. Nell'evoluzionismo, allora, ci sono ancora grandi cose da capire? The reason why I do research is because I expect the unexpected. Il motivo per cui io faccio ricerca è perché in realtà io mi aspetto l'inaspettato, semplicemente. Nell'evoluzione non è ovvio il motivo per cui la selezione sostenuta da Darwin possa realmente influire sulla genetica e sull'epigenetica. Non è ancora totalmente chiaro come si possono sviluppare tutte queste diversità nei tipi di vita che esistono. Ci deve essere qualcos'altro. Ci deve essere qualcos'altro per riuscire a comprendere perfettamente qual è il potere dell'evoluzione. La nostra tecnologia ci può adesso permettere di vedere meglio questo aspetto, ed è molto importante considerare il fatto che adesso abbiamo una biologia, un studio biologico di tipo sistemico, cioè non nel passato ci si concentrava solamente sui fattori individuali, mentre adesso si possono combinare i fattori delle diverse aree per avere un quadro più completo. La grande domanda della biologia è: come è possibile che l'insieme sia più grande della somma dei singoli fattori? Adesso noi siamo in grado di poter arrivare a capire questo e poter dare una risposta. Se per esempio pensiamo nel passato, quando si studiavano le funzioni neurologiche che poi ci hanno portato a capire come funziona la coscienza di un essere umano, tutto questo ha a che vedere con l'evoluzione. Noi dobbiamo capire veramente perché il quadro totale è più grande della somma dei singoli elementi. In pratica, dice Bolcom, la situazione la possiamo descrivere con questo esempio: come se sapessimo quasi tutto del ginocchio, dei polmoni, del fegato, della circolazione e alla via così, ma ci mancasse un'immagine completa del corpo umano. Conosciamo bene i pezzi, ma non l'insieme. Tutta la vita viene da un organismo iniziale, d'altronde, e quindi è questo grande essere che contiene tutto, vegetali e animali, che ancora dobbiamo capire cosa sia. Sentite adesso che cosa vi racconta Chiara Albicocco. Si chiama Delftia acidovorans ed è un batterio in grado di espellere granuli di oro massiccio come prodotti del proprio metabolismo. Ma andiamo con ordine. Insomma, questo microorganismo infatti è in grado di sintetizzare e di secernere una sostanza che aggrega gli ioni di oro. In genere questi metalli sono tossici per i microrganismi e ne limitano la proliferazione. Questa specie invece rappresenta un po' un'eccezione, cioè non solo è in grado di sopravvivere, ma addirittura riesce a sintetizzarli in modo da creare dei prodotti di scarto sotto forma di micropepite di oro purissimo. Sull'oro, d'altro canto, si trovano spesso biofilm batterici composti proprio da questa specie. Un gruppo di ricercatori canadesi li ha studiati e ha scoperto la strategia attraverso la quale rendono questo metallo non tossico. Infatti la delzea secerne una sostanza, la delzibactina, che fa precipitare il metallo all'esterno della cellula prima di metabolizzarlo, producendo così minuscoli residui di oro puro, però biologicamente inerte. Questa capacità di sintetizzare, di secernere particelle abbastanza importanti di oro puro potrebbe essere sfruttata anche a scopo commerciale. Bene, staremo a vedere. Ora immaginiamo i brividi lungo la schiena, insomma una sensazione di freddo. Fino ad ora nulla o poco si sapeva sul meccanismo che genera questa sensazione. Bene, ora si sa che è tutta colpa della proteina TRPM8. È la molecola responsabile della percezione delle basse temperature. Alla University of Southern California hanno studiato in che modo i neuroni del freddo vengano così attivati. Per farlo hanno utilizzato delle cavie, come spesso succede, hanno rimosso questa proteina da alcuni topi di laboratorio e li hanno posti su una superficie la cui temperatura era variabile, tra gli 0 e i 50 gradi. Hanno così osservato il comportamento di questi animali e si è potuto concludere che, pur mantenendo inalterate le funzioni neurologiche, cioè la sensibilità al caldo e al tatto, non percepivano più la sensazione di freddo. Infatti, mentre gli animali normali, cioè non modificati, si concentravano sulla superficie tiepida intorno ai 30 gradi, quelli senza la proteina TRPM8 si distribuivano in maniera omogenea sulle zone anche molto fredde, sulle quali invece avrebbero dovuto provare dolore. Qual è l'importanza di questa scoperta? Ecco, l'applicazione di questa ricerca potrebbe essere legata ai farmaci antidolorifici, perché quelli potenti come la morfina inibiscono ogni sensazione, dolorosa e non, lasciando però il paziente in uno stato mentale piuttosto confuso. Invece, studiando a fondo il meccanismo di funzionamento di questa proteina, si potrebbe invece sviluppare dei farmaci che lascino inalterate le funzioni cognitive, risolvendo il problema della percezione del dolore. Un naso elettronico per un'importante applicazione medica. Ce ne parla il nostro collega Daniele Bettini in un'intervista con Lorenzo Spaggiari, direttore del Dipartimento di Chirurgia Toracica dell'Istituto Europeo di Oncologia qui a Milano. La prima domanda che gli abbiamo fatto riguarda proprio la natura specifica del progetto. Noi siamo da anni in prima linea nella ricerca della diagnosi, sulla diagnosi precoce del tumore del polmone. Abbiamo iniziato con l'utilizzo dell'attacco, oggi abbiamo questa nuova sperimentazione che prevede l'analisi attraverso un sistema elettronico molto sofisticato dell'esalato del paziente con un tumore del polmone. Quindi si tratta di una sorta di naso elettronico pensato per analizzare il fiato dei pazienti. Sì, viene chiamato naso elettronico proprio perché analizza l'esalato, cioè il contenuto dell'esalato, l'espirio chiamiamolo, e quindi analizza tutte le piccole particelle che sono presenti in ogni atto respiratorio. Lo chiamiamo naso, ma è uno strumento elettronico con diversi sistemi di registrazione delle molecole che vengono espirate dal paziente. Ancora l'85% dei pazienti con tumore del polmone muoiono oggi, purtroppo, perché la diagnosi è effettuata in fase tardiva. Abbiamo questo nuovo studio, che è lo studio dell'attacco spirale, che ci ha permesso di diminuire la mortalità, però rimane un esame comunque invasivo legato all'utilizzo di radiazioni. Oggi partiamo con una nuova sperimentazione che dovrebbe darci la possibilità di identificare tumori piccoli senza essere troppo invasivi sul paziente, perché l'analisi, come dicevamo prima, è un'analisi grazie a un naso elettronico delle particelle presenti nell'espirato del paziente. Come intendete procedere con questa rilevazione dei casi? Questo progetto è essenzialmente uno studio finanziato dall'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, dove il dottor Gasparri e il sottoscritto hanno presentato un grant alcuni anni or sono ed è stato finanziato per 3 anni. In pratica noi effettueremo uno studio pilota cercando di analizzare pazienti con tumore del polmone già noto e confrontandoli con persone che non hanno il tumore del polmone, per vedere se esiste quella che noi chiamiamo una firma, una signature, un qualche cosa che contraddistingue la presenza del tumore in queste particelle che noi analizzeremo con questo naso elettronico. In una prima fase analizzeremo pazienti con dei tumori noti e di una certa dimensione per essere sicuri che sia presente questa firma, questa signature, e in una seconda fase incominceremo a scendere come dimensione del tumore fino ad arrivare ad avere pazienti con piccolissimi tumori, perché l'obiettivo è di utilizzare questa metodica come metodica di screening per la diagnosi precoce del tumore del polmone. Quindi il vostro scopo sarà anche quello di andare a brevettare uno strumento tendenzialmente esportabile in tutti gli ospedali? Assolutamente, cioè il nostro obiettivo è di trovare e di confermare la possibilità che questo strumento possa identificare tumori in fase iniziale, dopodiché questo può essere utilizzato in qualsiasi ospedale, anche perché la tecnologia è estremamente semplice ed è poco costosa e non è invasiva, non sottopone pazienti né a radiazioni né a prelievi di sangue, quindi identifica proprio quelle caratteristiche specifiche di una metodologia di screening che devono essere esportabili a basso costo e poco invasive per il paziente. Ricordatevi, non possiamo perdere i gorilla, dobbiamo proteggere tutte le specie, certo, ma non possiamo perdere i gorilla. Ci vediamo qui fra 7 giorni a Möbius. Buona settimana a tutti e a tutte.